Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Il futuro del freddo potrebbe essere magnetico. Buonasera da Maurizio Melis. Come molti ascoltatori probabilmente sapranno, ma vale la pena di ripeterlo, di ricordarlo, poiché ogni volta che un liquido evapora, assorbe calore, generando per così dire del freddo, la stragrande maggioranza dei frigoriferi funziona sulla base di un ciclo dove c'è un fluido come acqua, gas, freon o altro che viene fatto passare appunto ciclicamente dallo stato liquido a quello di vapore e viceversa. C'è però un'alternativa molto promettente, di cui si è ampiamente discusso dal 12 al 14 settembre scorsi a Torino nel corso dell'annuale conferenza internazionale sulla refrigerazione magnetica a temperatura ambiente, che quest'anno è stata organizzata proprio dall'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, quindi istituto italiano. Ne parliamo con Vittorio Basso, ricercatore dell'IRIM e chairman appunto della conferenza. Buonasera Basso. Buonasera e buonasera agli ascoltatori. Allora senta, materiali magnetici al posto di pompe, insomma fluidi vari per fare un frigorifero, come funziona? Qual è il principio di base? Qui c'è l'idea di sostituire al fluido del normale frigorifero di casa un solido magnetico. E c'è l'idea di utilizzare il campo magnetico al posto della pressione per avere delle variazioni di temperatura in positivo e in negativo. Perfetto, quindi diciamo che c'è un pezzo di materiale, una lega particolare, poi ne parliamo anzi di queste leghe, a cui voi mettete e togliete il campo magnetico, è così? Sì, il principio in un certo senso è simile a quello che succede nei gas, ma invece di avere il movimento delle molecole abbiamo l'ordine magnetico su una scala atomica. Quando mettiamo il campo il sistema si ordina, si riscalda e cede calore. Quando togliamo il campo il sistema si disordina, si raffredda e assorbe calore dall'esterno. E quindi abbiamo un solido che passa da uno stato ad un altro, non si vede a occhio, diciamo, ma cambia l'organizzazione molecolare, no? Per esempio il ghiaccio quando è molto compresso diventa blu, come vediamo negli iceberg, è un ghiaccio diverso da quello bianco che insomma si forma per strada quando gela, e voi sfruttate queste transizioni. E il principio di base di questo raffreddamento, diciamo così, magnetico era stato però individuato già molto tempo fa. Sì, questo principio si chiama effetto magnetocalorico, è noto dagli inizi del Novecento, è stato studiato molto negli anni 30 e 40, soprattutto per degli scopi precisi, più di fisica di base, cioè l'idea era quella proprio di poter utilizzare questo principio per raggiungere lo zero assoluto. Può avvicinarsi molto, insomma, certo. Sì. Chi lavorò tanto su questo campo fu un americano, Jacques, che prese poi il premio Nobel nel 49. Perfetto, perfetto. Ecco, quindi si cominciò a lavorare, diciamo, sul super freddo, anche perché all'epoca non si conoscevano materiali adatti a lavorare a temperature del frigorifero di casa. Poi queste tecniche sono state usate per, non so, liquefare il gas e l'idrogeno per i razzi e così via. Poi 20 anni fa è successo qualcosa di importante che ha fatto partire questa ricerca di applicazioni più sulla scala appunto della refrigerazione industriale o domestica. Eh sì, non tutti i materiali ferromagnetici hanno questo effetto, bisogna proprio andarli a cercare, come si dice. E una scoperta importante c'è stata a metà degli anni 90. Un gruppo di ricercatori americani ha scoperto una lega di gadolinio, silicio, germanio che aveva un effetto magnetocalorico particolarmente grande e nell'intorno della temperatura ambiente. A partire da questa scoperta appunto di circa 20 anni fa sono cominciate le ricerche, dicevamo, per produrre qualcosa di applicabile, diciamo, nella vita di tutti i giorni, e lì al vostro congresso erano esposti due prototipi. Sì, qui al congresso abbiamo avuto diversi contributi proprio scientifici, sia nel senso dei materiali che dell'ingegneria. E anche due espositori, che sono delle piccole aziende, possiamo chiamarle spin-off, che hanno presentato il loro lavoro proprio sui prototipi. In un caso una ditta inglese ha lavorato sul sostituire il compressore di un frigo di casa, sì, praticamente con un'alternativa magnetocalorica. Un'altra ditta francese ha lavorato su un refrigeratore magnetocalorico più grande, adatto per scopi industriali. E diciamo che l'interesse è capire quali saranno le applicazioni dove possibilmente si potrà. Ecco, perché quali sono i vantaggi di questo tipo di refrigerazione rispetto a quella tradizionale? Chi lavora nel campo di ingegneria, io personalmente sono un fisico, sostiene che questo sistema permette un risparmio di energia. Okay. Sono più convenienti dal punto di vista energetico, sono abbastanza silenziosi, non c'è un compressore, c'è un campo magnetico generato da un motore permanente, quindi la cosa può essere, diciamo, un'interessante alternativa alla tecnologia contemporanea. Insomma, ci sono anche dei vantaggi, non è solo un esercizio così speculativo per vedere che cosa riuscite a combinare. Senta, in Italia c'è attenzione da parte delle aziende. Sì, noi personalmente, noi come gruppo di Torino dell'INRI abbiamo lavorato in 2 progetti europei e in tutti questi progetti europei avevamo anche dei come partner delle industrie italiane della refrigerazione. Okay. Quindi devo dire che loro sono molto attenti a quello che succede in questo campo. Va bene, grazie Vittorio Basso, buon lavoro. Grazie mille e saluti agli ascoltatori. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre, a domani, buonasera.